Sono le ore 20.06 di venerdì 28 febbraio 2024. E sono appena uscito dalla presentazione di un volume di prosa in prosa, così come viene definita, di Marco Giovenale, intitolato Oggettistica. Allora, io devo dire, mi sono avvicinato a questo autore davvero peculiare, Marco Giovenale, non tanto per le sue opere, banalmente perché non ho mai creduto, non ho mai pensato di poterle veramente apprezzare, perché non dotato degli strumenti per farlo. E quello che mi incuriosì peraltro della lettura, no? Di quello che lui ha pubblicato in questi anni, era il fatto che in qualche modo riusciva a funzionare anche con me, persino con me che appunto sono sprovvisto di questi strumenti. E questo secondo me ha molto a che fare con tutto il resto di ciò che Marco lascia come tracce della sua presenza letteraria. Io credo che sia per esempio una presenza letteraria molto importante anche quando banalmente, semplicemente aggiorna questo blog collettivo che tiene insieme ad altre persone, che si chiama Slow Forward. L'indirizzo è slowforward.net, consiglio a tutti di seguirlo, perché è davvero una forma alla quale non siamo più abituati e di cui abbiamo drammaticamente bisogno. Una forma e un metodo di interazione con i contenuti completamente svincolato dalle regole di senso che normalmente governano il nostro rapporto con i contenuti, di cui la rete si è resa complice attraverso i modelli economici che ha scelto per, tra virgolette, auto-remunerarsi. E c'è quindi un parallelismo molto forte tra la sua, diciamo, vera letteratura, cioè tra ciò che pubblica, possiamo dire la sua pubblicistica, e questi oggetti, no? Con i quali appunto ci fa interagire, sorprendendoci per la loro totale discontinuità rispetto a tutti gli schemi in cui siamo invece normalmente imprigionati. Ecco, questo grande senso di non di libertà, perché anche la parola libertà è molto abusata, di giocosità, di candore che attraversa più o meno chiunque si imbatta con i suoi scritti, con le sue opere, con le sue tracce, è qualcosa di cui abbiamo soprattutto oggi drammaticamente bisogno. Ecco, di questo sono profondamente convinto. Ne abbiamo drammaticamente bisogno, e non deve stupire il fatto che tutto questo poggi radici molto profonde nella comune matrice che ha la nostra generazione. Io e Marco più o meno abbiamo la stessa età, siamo entrambe persone che hanno iniziato a interagire con i contenuti in età addirittura preadolescenziale, attraverso che cosa? Attraverso i media degli anni 70, media che già allora ci hanno lasciato, fin dall'inizio diciamo, ci hanno lasciato questa stringente urgenza verso qualcosa che presto sarebbe stata aggredita da regole meccanicistiche, da regole naturalmente finanziarie, da regole di sistema, e mentre tutti quei glitch che caratterizzavano, come questa è una parola che usa spesso anche Marco, i media di quell'epoca, no? Le sigle che quasi anche graficamente non funzionavano, certe retoriche, certi testi, una certa semantica che attraversava tutta la produzione mediatica degli anni 70, anche e soprattutto attraverso, per esempio, la RAI, il servizio pubblico, in un momento poi di trasformazione, no? Dalla RAI paludata di Bernabei a quella della riforma, che aveva questi slanci di sperimentazione incredibile. Ecco, io credo che le radici davvero siano molto molto profonde, proprio lì dentro, in quella nostra esperienza, ed è forse in quello che oggi ci stiamo ritrovando, pur venendo da mondi e da passioni completamente diverse. Io mi occupo di media, lui si occupa di letteratura, però alla fine, forse, come direbbe qualcuno, tout s'étient e il cerchio si chiude. E si chiude perché io, per esempio, mi occupo di comunicazione e stando con Deleuze, e dovremmo tutti stare con Deleuze, l'artista è tale proprio nel momento in cui si sottrae ai vincoli, alle regole della comunicazione, ed è proprio per questo che consiglio davvero a tutti la lettura di Oggettistica, uscito per i tipi di TIC Edizioni, meritoria casa editrice, che porta avanti questo discorso straordinario sulle scritture di ricerca, di cui Marco è uno degli esponenti più interessanti.